Ausklang. Radio Ausklang. Radio Ausklang. Radio Ausklang. Radio Ausklang. Radio Ausklang. Radio Ausklang. Rapina in banca, via Pisanello 10. Attenzione a tutte le volanti. Rapina in banca. Fermi tutti, una rapina! Mettetevi giù, faccia a terra! Su, su, avanti, sbrigatevi! Tira fuori il sacco, i nervi a posto. Forza, ragazzi, forza! Sbrigatevi, dai! Alza le mani! Uè, alla bavola, sta presto! Sta presto! Al muro! Chi si vuole ci... Possono rientrare. Attenzione alle auto della quarta zona. Rapina all'agenzia 11 del Banco di Torino. Recarsi sul posto. Su, dai, che siamo vicini, forse li becchiamo. Agenzia 11 del Banco di Torino. Attenzione. Siamo nervosi. Fermi, fermi. Si può anche sparare. Ale. Buono, buono, non vedi che giocano. Ale, ale, a Vit, Vit. Ragazzi, la polizia! Pacca troia! Fermi tutti fuori! Dai, salta fuori! Vai, vai! E gli altri! Vai, idiota, vai, che ci beccano! Arrendetevi! Che facile! E camma fa? Si nacci di uno e si finì e zoccola l'ergastolo un toleva manca a Marun! Venite fuori! Non sparate! Ci arrendiamo! Spara, spara, che aspetti? Dire perché hai fatto suonare il segnale d'allarme. Ah, ma allora sei proprio stupido, non l'hai capito. Cos'è? Devo scriverti una raccomandata con ricevuta di ritorno per farti capire le cose. Ma senti, piuttosto, avremo un 3 o 4 milioni, ma chi ce lo fa fare ad andare a un'altra banca? Bella testa di rava. L'avrà capito, adesso hai fatto dell'allarme. Loro vanno nella banca che abbiamo rapinato e noi siamo già in un'altra, no? Basta ridere adesso, calma, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Questa è un po' difficile da mandar giù. Non tanto. Tutti sogniamo di tornare bambini. Anche i peggiori fra noi. Forse i peggiori lo sognano più di tutti. Allora lei sa chi siamo noi? Credo di sì. Siete due banditi. E lei è il terzo. Delinquente. Dei rapinatori e dei ribelli sociali. Alla fine degli anni 60, i quartieri operai di una città affacciata sul mare. questa aggregazione che nasce all'interno dei quartieri, dove è particolarmente spiccato quello che si può definire il patriottismo di quartiere. Sono i ragazzi della via Pala, insomma, sostanzialmente, no? Cioè, quindi la guerra di una via contro l'altra, di un quartiere contro l'altro, guerre che sono prevalentemente di natura simbolica, comunque si può chiamare una sorta di ribellismo giovanile che c'è ed è estremamente diffuso, basta pensare agli anni di cui stiamo parlando. Nasce su un all'interno di un tessuto sociale, questo credo che sia importante sottolinearlo, che non ha i retaggi dei mondi tradizionali dell'illegalità, ma ha i retaggi soprattutto in senso lato della cultura operaia. Poi la fabbrica, sempre uguale, chiusa nelle sue mura, e l'urlo di sirena che li chiama in un unico appello. La storia quotidiana dell'operaio ha termine solo a sera. Diciamo che la sirena è stata uno degli elementi che mi ha accompagnato me e anche altri di questo collettivo nella nostra vita. Siamo nati in un quartiere operaio, abbiamo vissuto in quell'area dove l'Italsider, quindi il grosso impianto siderurgico al meridione, scandiva il tempo con la sirena. E questa sirena era un senso comune per tutti. Quindi si andava a scuola col suono della sirena, gli orari chiaramente erano sfalsati, ma fondamentalmente questa cosa richiamava un po' tutti al tempo, questo riferimento era grosso. E questo è successo anche quando siamo andati più grandicelli, siamo andati a scuola. La scuola, ovviamente un istituto tecnico industriale nel quartiere, quindi Bagnoli, che inevitabilmente doveva fornire i nuovi lavoratori, i nuovi operai, i nuovi quadri, medio-bassi, che servivano per l'industria. Quindi ci siamo ritrovati fra 7 amici che ci conoscevamo bene, avevamo fiducia uno dell'altro, parlando di queste cose siamo trovati più o meno d'accordo, facciamolo, cioè voglio come andare a pigliare una birra, credo, cioè una cosa forse un po' incosciente, ma probabilmente se noi fossimo stati dei soggetti politicamente attivi dentro il partito non l'avremmo mai fatto. Eravamo degli emarginati anche in quel caso, sia sul lavoro, sia sul partito, sia sulla politica, in tutto. Eravamo veramente degli animali di periferia. Beh, sai, il concetto anche di batteria poi ha solitamente un nucleo duro che può essere composto da 8-10 persone e poi intorno a tutto, come dire, un'area che può partecipare o meno alla loro attività, ma che comunque li copre. Insomma, in qualche modo l'altra grossa cosa che in qualche modo va detta è la sostanziale legittimità sociale che questi hanno potuto vantare per anni all'interno dei mondi dai quali provenivano. Erano gli anni delle lotte un po' più dure, 73, 74, 75, dove i cortei erano auto-organizzati, autodifesi, gli incidenti erano non all'ordine del giorno, ma sicuramente c'era questo connotato forte. Spesso questa componente, che poi aveva anche relazioni amicali del quartiere, erano gli stessi che poi si incontravano durante gli incidenti, durante gli scontri, quindi un rapporto di solidarietà forte tra la componente, come dire, politica tra virgolette, e questa area abbastanza grossa di giovani che nella ribellione sentivano lo scontro forte con l'istituzione, con questo potere dominante che in qualche modo ti escludeva tutto il resto della città. Noi in effetti eravamo protagonisti unicamente quando c'erano gli interventi politici, dico politici per parlare di manifestazioni, ma il resto eravamo trasparenti. Non c'è, come dire, una lunga trafila fatta di piccoli reati, eccetera, eccetera, e poi l'approdo a reati più grossi. C'è praticamente un salto pressoché immediato. Cioè, c'è un, cioè, tant'è vero che la quantità di reati di cui questi sono solitamente sono imputati hanno, tranne proprio delle ragazzate iniziali che hanno più a che fare con le risse, queste cose qui, non hanno una quantità di micro reati, come ad esempio scippi, furti. Ecco, il reato minore che questi, con questi spesso cominciano sono le spaccate. Le spaccate sono, possono essere fatte sostanzialmente in due modi. La più classica, intanto prendere di mira le gioiellerie, quindi prendere una mazza da 5 kg, si parla anche di un'epoca in cui i vetri non avevano le blindature di oggi, eccetera, eccetera, per cui oggi una mazza da 5 kg data a una gioielleria rimbalza, ma all'epoca una mazza da 5 kg contro una vetrina in gioielleria cadeva in frantumi, per cui c'era uno che prendeva, dava la mazzata, faceva cadere il vetro e l'altro subito dopo che arraffava tutto. E poi all'interno anche delle spaccate, in queste cose qui, c'è anche una sfida non solo alle forze dell'ordine, cose qui, ma c'è anche una dimostrazione, no? Di bravura, no? Nei confronti degli altri. E quindi c'è un rilancio interno continuo, no? Nel senso che se un gruppo fa una spaccata di un certo tipo utilizzando determinati mezzi, gli altri, come dire, vanno a cercarsi un obiettivo, per cui non so, i giornali ne parlano di più. Genova diventa il teatro di sfide dettate dai nuovi tempi della modernità. Questa guerra tra gang permane nel fare l'impresa più eclatante. Ma mi puoi dire perché hai fatto suonare il segnale d'allarme? Ah, ma allora sei proprio stupido, non l'hai capito. Cos'è? Devo scriverti una raccomandata con ricevuta di ritorno per farti capire le cose. Ma senti, piuttosto, avremo un 3 o 4 milioni, ma chi ce lo fa fare ad andare a un'altra banca? Bella testa di rava. L'avrà capito, adesso hai fatto dell'allarme. Loro vanno nella banca che abbiamo rapinato e noi siamo già in un'altra, no? Basta ridere adesso, calma, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. La banca più difficile è in qualche modo, cioè l'impresa è giocata su più fronti, giocata sul fronte delle forze dell'ordine, come si dice, forze dell'ordine, ma anche come acquisizione di prestigio all'interno del circuito che è quello delle batterie. L'episodio della doppietta in piazza Fontane Marose, che è una delle zone più sorvegliate della città, piena di banche. Loro hanno fatto in contemporanea due banche, una di fronte all'altra, perché loro ne volevano fare una, ma avevano il problema che sarebbero stati visti da quella di fronte, dai guardiani di quella di fronte. Allora hanno detto, allora visto che ne facciamo una, ne facciamo tutte e due, così ci togliamo il problema. Fece scalpore perché la tecnica che hanno, sia per il numero delle persone, sia per la tecnica che hanno usato, ricordava un po' quella di Tupamaros, nel senso che loro poi, siccome Genova è pieno di sensi unici, ecco, quindi loro per impedire che le forze dell'ordine arrivassero da un luogo avevano poi preso un pullman e l'avevano messo in mezzo alla strada incendiato, per cui bloccando quindi l'unica via di accesso dalle possibili pattuglie che sarebbero arrivate, che era una tecnica abbastanza non consueta, insomma, per le tradizionali batterie di rapinatori. Quella è una. La seconda invece è di nuovo una zona ancora peggiore da un punto di vista della militarizzazione della città, che se non sbaglio è la banca Passadore. La polizia vide e filmò tutta l'operazione, ma decise di non intervenire perché per il livello di armamento di questi, che avrebbe che era fatta sia di armi lunghe, bombe, eccetera, eccetera, e avrebbe comportato conseguenze, come dire, non auspicabili. Il fatto che tu con un pezzo di ferro metti in soggezione delle persone, appunto da bloccarle, cioè questo ti fa sentire qualcosa di pesantissimo dentro, cioè, non sono cose fatte a cuor sereno, sai? A parte la paura che costa, insomma, c'è sempre il rischio, guarda, le cose che programmi mai andranno così. Thank you. Allora, l'iter di questi passa attraverso molti furti, queste cose, però questi mirano quasi immediatamente alle banche. E anche lì c'è questo, cioè, voglio dire, e anche lì il mirare alle banche ha un duplice significato, cioè nel senso che da una parte sicuramente le banche sono quelle che hanno maggiore denaro. Però le banche sono anche, come dire, da un punto di vista della logica della sfida, il punto più alto, no? Cioè andare a toccare, come dire, il punto più alto in cui cioè misurare, perché lì c'è proprio una logica di sfida con le forze dell'ordine, no? Cioè che è quella che in qualche modo anima, no? Lo stile di vita delle batterie, cioè in qualche modo dimostrare di essere sempre più bravi della polizia. La sensazione dell'attacco alla ricchezza veniva definito, non veniva definito fondamentalmente, veniva vissuto. E il vissuto significava, come dire, sicuramente non era l'attacco alla serie di individui che popolavano il tuo quartiere. Non si è mai pensato di rubare in una casa o di prendere la borsa di un anziano. Ma sicuramente erano i luoghi più facili, quelli deputati. Era l'ufficio postale, erano il portavalori, erano... per quanto riguarda l'attacco alla ricchezza, contestualmente erano i fascisti dall'altra parte o l'attacco alla polizia, alle caserme o alle strutture che si individuavano per tali, comandi dei vigili urbani, che in un periodo a Napoli presero abbastanza piede perché vennero, come dire, impegnate anche in attività antisociali. Quindi su questo ci fu anche l'iniziativa contro i vigili urbani, che cominciarono ad avere anche un peso, anche se marginale. Quindi su questa cosa lo sviluppo era molto legato a condizioni specifiche. Si individuava la gioielleria, a differenza del salumiere sotto casa, perché si percepiva fondamentalmente quello, l'accumulo di ricchezza al quale bisognava attingere. E tutto questo era riconvertito al fatto che i soldi in quel momento servivano non solo per la tua vivibilità quotidiana, perché una parte dei soldi venivano spesi per le case da affittare, dalla nostra sopravvivenza, incominciamo già a vivere fuori casa un po' tutti, e poi fondamentalmente per armarsi e acquistare altri tipi di materiale che ci potevano servire per la macchina, gli esplosivi, e tutto questo viaggiava su dei passaggi senza nessuna forzatura. La cosa che ricordo bene è che non c'è forzatura, era un passaggio automatico, forse a volte fin troppo ripetitivo, però vedevo che questa cosa funzionava con una sua semplicità e una fluidità. Mai sono stati discorsi, scontri sulle modalità di approccio a tutto questo. Capitava sicuramente quando poi ci si ragionava, ecco, quando la ragione entrava in campo, diventava più complesso articolare un discorso politico. Sicuramente ricordo con più angoscia le riunioni per far uscire un volantino che per fare un'azione il giorno dopo. L'idea che avevamo in testa era un'idea insurrezionalista, qualcosa del genere, insomma. Per cui lì poi iniziano tutti gli interrogativi su come fare, cioè noi non avevamo una lira per cavarci un occhio. Ricordo la prima arma che comprammo fu un fucile da caccia, calibro 12, lo pagammo 6.000 lire, cioè facemmo una colletta tra di noi. Poi ci autotassammo, comprammo anche una pistoletta. Allora ci inventammo anche giovani marmotte a giocare un po' con la chimica applicata, se con lo zolfo, l'alluminio, carbone si riuscisse, o zucchero, e venivano fuori degli spettacoli ridicoli che ci demolivano anche psicologicamente, insomma, dopo che avevi impastato questi, facevi esperimento, piff, veniva fuori un petardo, insomma. E lì due problemi poi immediatamente vengono al pettine, che è quella che per fare la rivoluzione bisogna avere le armi. E le armi non si possono comprare autotassandoci. Guadagnavamo troppo poco tutti quanti, lavoravamo ma guadagnavamo poco. E poi l'altro elemento, che siccome ha dei costi la rivoluzione, bisognava farla con i soldi dei padroni. E dove tengono i soldi i padroni? Sembrava banale la domanda in banca. Mettetevi giù, faccia a terra! Su, su, avanti, sbrigatevi! Tira fuori il sacco, i nervi a posto. Chi è il cassiere qui? Sei tu, vero? Dai, avanti, vieni qua, apri la cassaforte. In questo gruppo ognuno tentava di portare quello che poteva. All'inizio parlavamo sempre di cose scalcagnate, addirittura arrivavano anche scacciacani, insomma, che però comunque sembravano strutture di armamento. Per quanto mi riguarda, io venivo già da un percorso, piccolo percorso fatto con un altro gruppetto di compagni di quartiere, però di strada, anzi, che in qualche modo avevano visto che io cominciavo a staccarmi dalla loro relazione, e due di loro mi fecero proprio come regalo proprio una pistola, e questa cosa divenne uno dell'inizio degli armamenti, diciamo. Questo poi, quando incominciamo anche a capitalizzare dell'economia, i primi contatti furono quelli con l'illegalità, che a Napoli si respirava in ogni angolo, in ogni condizione, e quindi questo passaggio erano anche quelli che in qualche modo ci vedevano diversi, e per loro era quasi prestigio contattare il politico, che poi comunque, per quanto figli di operai, impiegati e di questo settore sociale, eravamo quelli che avevano studiato, quindi per loro era quasi un lustro dotarci a costi sempre irrisori, a volte anche amicali, abbiamo avuto anche regali, ecco, mettiamolo così, di armi, e questa cosa stava procedendo proprio in questo senso, quindi abbiamo cominciato a prendere la prima, come dire, armamento leggero, fittare la prima casa, e questo è il passaggio successivo per tentare di progredire in questo passaggio. A Napoli molte altre cose si muovevano, e quindi la cosa che si incominciava a percepire, che era molto diffusa questa volontà di rottura, e uno dei nostri episodi, diciamo, che abbiamo vissuto nel corso del tempo, è proprio questa iniziativa che, essendo di Bagnoli, c'era questo gruppo di bagnolesi che in effetti ci riconosceva questo ruolo, erano lavoratori, questi lavoratori erano di una ditta che era appaltante dell'Italsir, quindi la grossa struttura, il nemico fondamentalmente, il cassiere che pagava tutti i mesi questi operai. Loro ci danno delle indicazioni, noi ci strutturiamo, ci organizziamo per prendere questo portavalori. Tentiamo la prima volta, va male, la rifacciamo dopo una settimana, tutto funziona, va bene, condividiamo anche con queste persone la parte economica, e da qui incominciava ad essere, come dire, molto più pregnante la relazione sul territorio. La cosa si blocca perché dopo un mese ci arrestano tutti. A bad cold he had of it. Just the worst time. Just the worst time of the year for revolution. Qui gli intrecci, diciamo così, fatti clamorosi di cronaca e politica sono sempre intrecciati, non vanno mai da soli l'uno o l'altro, vanno in coppia. Ragazzi, la polizia! Vacca troia! Dai, salta fuori! Mettetevi al riparo! Spara, spara, che aspetti? Le batterie diventano la matrice della città, si intrufolano nel quotidiano e inventano sprazzi di luce per chi, da tempo, è abituato a vivere nell'ombra. Gli episodi in città incominciavano a essere molteplici, e quindi per sottolineare la tendenzialità che non appartenevamo a gruppi organizzati, perché i gruppi organizzati incominciavano a farsi sentire fortemente e rivendicavano con volantini ogni volta e con denominazioni che conosciamo tutti, quindi abbiamo incominciato a fare gruppo, quindi anche a ragionare sopra alla possibilità di far uscire un documento, minimi documenti, o anche solamente le telefonate all'ANSA che si facevano dopo gli attentati, con varie sigle, proprio perché non riuscivamo a darci un connotato specifico. questa cosa era vera che restava sempre in una condizione vacua e così, come dire, molto aleatoria, però ci faceva sentire sempre di più appartenere a questo gruppo che effettivamente oltre la militanza si viveva proprio la quotidianità, perché ripeto, era gente che viveva nello stesso quartiere, abbiamo vissuto nella stessa casa, quindi questa cosa poi in effetti ci ha fatto sì che si compattasse il tutto proprio grazie a queste relazioni, a prescindere poi del tipo di iniziative che abbiamo fatto, veramente delle più strane. Ricordo una che sicuramente in quel momento a noi è sembrata così automatica. Una delle compagne di questo gruppo ha avuto un problema, doveva abortire, era giovanissima in effetti, e a Napoli c'era un famoso medico abortista. La situazione era molto complicata perché le compagne un po' più agguerrite di noi, femministe abbastanza convinte, ma senza nessun estremismo in questo senso, ma proprio come loro ruolo di appartenenza, sentivano questa cosa che fosse stata una violenza, quindi, però c'era un'esigenza, c'era un bisogno. E alla fine questa cosa si è risolta con una mediazione. La mediazione è stata da noi condivisa. Siamo andati, abbiamo accompagnato questa compagna, due donne e tre di noi, siamo andati in questo luogo in pieno centro dove avrebbe dovuto fare questo intervento e abbiamo pagato con i soldi falsi. Siamo andati là armati, convinti che noi facevamo questa cosa. Lui ce la doveva fare e l'abbiamo pagato con 50.000 lire false, e questi soldi eventualmente fossero stati rifiutati, eravamo disposti, armati, a pretenderlo. Questa è una cosa che ci ha rinsaldato come relazione, ci ha dato questo passaggio. Questo poi ci ha permesso poi anche, come dire, di avere uno scambio relazionale con tutta un'altra serie di compagni che sul territorio, anche loro autonomamente, sempre si muovevano in questo senso. Dai rapinatori e dei ribelli sociali.